A spasso per gli stand espositivi tra una cucina a schema libero e una sedia multischienale, per non sbagliare nella scelta di un acquisto importante, si va alla ricerca delle macro tendenze, che mettono d'accordo buona parte delle aziende. Marco Romanelli, critico e designer. Una sorta di ritorno alla fidelizzazione del marchio, inteso come sicurezza di un saper fare, un saper lavorare in legno, un saper imbottire, un saper gestire una pelle. Il cliente, la persona che si avvicina al design, vuole essere assolutamente tranquilla che al di là della bellezza formale ci sia una qualità. La possibilità di spesa del consumatore si contrae e l'offerta risponde puntando sulla qualità funzionale. In altre parole, mentre un tempo le persone si avvicinavano all'oggetto di design richiamate dal nome e dallo star system, oggi scelgono in base a criteri solidi e precisi. Su cosa puntare per non spendere troppo? Vanno bene anche gli oggetti piccoli che caratterizzano il vivere quotidiano, per esempio gli specchi, dal valore intimo e simbolico, oppure, seguendo il trend di un omaggio al passato, i tavolini in legno naturale e non trattato in maniera artificiale. Irene Privitelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.